colore del pensiero, mi sembrava molto interessante. E poi avrei già fatto alcune incisioni, anzi tre incisioni, della Patrizia Plattner, che è la figlia del Carl Plattner, del pittore. Poi c'era Maria Stoffello, una mia carissima amica di Rovereto, che ora sta poco bene, poveretta, mi dispiace molto, te lo dedico, Marionina. E poi un uomo, noi anche un uomo, il dottor Adami, Maurizio Adami. E le illustrazioni sono di questi vari. Abbiamo fatto, finito questo lavoro, abbiamo fatto un altro libro che si chiama appunto, oddio, Oltre la soglia. E anche venuto molto bene, molto simpatico, con anche dei temi eccetera del quale ne parleremo, che non so, forse una volta, e comunque senza illustrazioni. Quello è un libro senza illustrazioni, mentre questo ha questo supporto, cioè anche l'illustrazione. Ecco, e questo più o meno è quanto. Come abbiamo svolto il lavoro? Lei naturalmente come filosofa, ci siamo tanto chiacchierate, messe insieme a casa mia, o di solito a casa mia, anche perché come vedete sono un poco disastrata. Ecco, e comunque abbiamo parlato e straparlato del tema, abbiamo preso un mucchio, veramente un mucchio di fonti, di libri che abbiamo letto, ne abbiamo conversato. Poi lei ha fatto tutta questa parte filosofica e io delle, così in follia, come la mia natura, delle osservazioni che sono tracce di pensiero che sono messe dopo. Questo è più o meno il piano di lavoro di questo libro. Il tema ombre e luce a lui è piaciuto in maniera particolare, anche perché io ho, e questo come primo ho dedicato alla Marionina Stoffella questa nostra conversazione, ad un'altra persona dedico questa conversazione, perché un amico, il professor Scarpa, se non per dirvi chi è, parlando di mio marito, diceva, siccome mio marito era un uomo molto alto, diceva: ai padri grandi, i padri alti lasciano ombre lunghe. E a me è piaciuto talmente tanto questa frase che me la ricorderò, come infatti nei miei figli quest'ombra lunga, mi assicuro che è rimasta non solo ai nostri figli, anche ai nostri amici, rimane quest'ombra lunga. Ecco. Ma che onore! Oh, ma quale onore! Che piacere! Ciao! Per tutti e due! Grazie Michele! Ecco, così più o meno questo era il discorso. Adesso io lascerei la Rosetta cominciare con la sua parte, diciamo, propositiva, la sua parte filosofica. Io poi ho trovato alcuni pensieri, alcune poesie, come sempre, e alcuni pensieri sempre riguardanti l'ombra. Una piccola cosa, io ho sempre avuto un rapporto molto diretto con la mia ombra, tanto che la mia ombra ha un nome, si chiama Lilli, l'ho sempre chiamata Lilli, da quando ero piccolissima. E tanto mia mamma diceva: ma chi è questa Lilli? Che è sempre stata la Lilli. Mi guardavo nello specchio e dicevo: ciao Lilli. E mia mamma diceva: insomma, finiamola con questa Lilli, che non conosco nessuno che si chiama Lilli, fra il resto, se non la mia ombra. Ecco, e con la quale ho sempre avuto un rapporto molto molto diretto, ed è il mio doppio praticamente, se volete una definizione, visto che parliamo di filosofia, una definizione più filosofica, è il mio doppio. E il mio doppio è compare e scompare, compare e scompare a seconda delle necessità, eccetera. Ecco, noi anzi qui in questo pezzo abbiamo scelto alcuni esempi illustri, che facciamo sempre così, esempi illustri. Lei diceva, Nietzsche lo dice ancora, che i libri, scelto l'argomento, i libri ci cascavano, le cascavano addosso dalla sua libreria o dalla mia, e allora andavamo secondo quel libro a parlare delle cose. Ecco, comunque Rosetta, a tua. Sì, spero che non mi vada via la voce. Allora, abbiamo detto, è un tema impegnativo, luce e ombre, e abbiamo incominciato col percorso filosofico e poi la Bruna scrive invece i suoi pensieri Quindi la nostra collaborazione consiste in questo. Io seguo i momenti fondamentali della storia della filosofia sul tema senza essere così dogmatica e rivolta a un pubblico specializzato, quindi niente note, eccetera, eccetera. Noi vogliamo che il nostro testo sia rivolto a tutti, anche a coloro che non hanno studiato né letteratura né filosofia, e siamo però, abbiamo però sempre seguito la storia della filosofia, quindi non è un percorso, la mia parte, la parte filosofica, non è un percorso arbitrario, no, è un percorso che va dalle origini al Novecento. Allora, sulla luce e ombre, il testo classico è il mito della caverna di Platone. Ecco, Platone immagina, nel suo dialogo, immagina che ci siano chiusi e legati, quindi schiavi legati in una caverna, e hanno la schiena rivolta indietro e loro guardano davanti a loro. All'uscita, secondo Platone, c'è un fuoco e questo fuoco riflette all'interno della parete le ombre. Allora, coloro che stanno nella caverna sono convinti che quella sia la realtà, che non ci sia un'altra realtà che quella lì, no? E ne parlano anche, fanno anche delle scommesse all'interno, eccetera, eccetera. Finché un giorno, scrive Platone, uno, e non dice chi, libera gli schiavi. Quindi si incamminano gli schiavi fuori dalla caverna, escono e immediatamente vedono che ciò che loro consideravano realtà erano solo le ombre, fuori c'erano le cose. Poi vogliono immediatamente guardare la luce, ma non riescono, allora abbassano lo sguardo e vedono le cose riflesse nell'acqua. Man mano che si abituano alla luce, questi schiavi guardano pian piano direttamente il sole, e nel sole c'è la soddisfazione di poter vedere ciò che prima era assolutamente impossibile. Allora, questo è il mito della caverna, è uno dei pochi che ancora adesso i prof di filosofia fanno, insegnano ancora ai ragazzi, meno male. Ecco. E allora la mia considerazione è questa: uno libera, cioè per passare dalle ombre alla luce c'è un passaggio fondamentale, questo passaggio fondamentale è l'essere liberi. Ecco, qui io vi lancio una primissima riflessione. Cioè, finché noi siamo legati, non riusciamo ad avere una considerazione vera del reale, finché siamo legati. Quindi c'è bisogno di un atto libero, e secondo Platone questa libertà non viene da noi, c'è uno che è libero. Cioè, quindi, in qualche modo, nelle interpretazioni poi di Platone, è la collettività, è un essere anonimo che ti dà la libertà. Non sei tu che ti liberi. Nel testo platonico c'è scritto esattamente, a un certo punto, uno porta fuori. Allora, il mito della caverna è in un certo senso proprio per noi il punto di partenza fondamentale per coniugare questa coppia di concetti, luce e ombre. Allora, sono anch'io le domande che faccio poi a voi, insomma, ma che ci siamo fatte noi due. Sono anch'io una persona che in qualche modo sto in una caverna dove non sono sicura che ci siano le cose vere, finché non ho qualcuno che mi spinge fuori, che mi spinge fuori, che quindi mi pone il problema della verità. Sempre nel percorso, quindi se poi sì, voi volete no, fermarvi. Sì, posso un attimino solo di interrompersi. Allora, questo il mito della caverna è molto conosciuto, tanto che persino il racconto popolare, cioè le leggende popolari delle quali io sono una fanatica e forse abbastanza, non dico esperta perché esperto è nessuno, comunque esperito, ecco, meglio così, raccontano la stessa cosa e raccontano che cade un pezzettino del soffitto della caverna e entra un raggio di luce da lì. E allora questo guarda, prima non ci vede, tutta la storia della luce, del sole è sempre la stessa, e viene uno e batte con la spada di fuoco, batte alla porta e butta giù la porta, e la fanciulla, cioè vengono liberati tutti questi esseri che sono assoggettati, non dice la parola schiavi, non lo dice proprio, anche perché sono fiamme ladine e la parola schiavo è una parola che da non usare assolutamente, e anche per motivi più vari che adesso non vado a raccontarvi, comunque li libera, questo libera e sposa la più bella delle fanciulle, che è una di queste della caverna, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò voglio dire, persino nella tradizione popolare c'è questa memoria, come quasi tutti i racconti popolari hanno un introterra molto importante, insomma, poi svolto in maniera diversa, naturalmente. Ecco, questo era una delle cose. Poi, naturalmente, era soltanto la parola, perché noi abbiamo messo come seconda cosa una bellissima poesia. A te, di Jean Dante, che dice proprio così: si consumano le ombre del mattino, queste si allungano su tutto il giorno, ma breve è il giorno. D'amore, se l'amore corrompe, amore, non so più leggere, amore o cresce o è pieno di ferma luce, il primo attimo d'ombra è la sua morte. Questa poesia che abbiamo citato qui. Ecco, poi come siamo andati avanti, tutto cade. Sì, allora, Giordano Bruno, che come sapete è stato arso vivo in Campo dei Fiori, e ha scritto un testo molto bello, De Umbris Idearum, cioè sulle ombre delle idee. Quindi porta avanti il concetto della divisione tra il sensibile e l'intelligibile, anche nelle idee. Ecco, questo per noi può essere un argomento molto interessante, perché adesso noi abbiamo delle fonti autorevoli, abbiamo i libri, abbiamo soprattutto i mezzi di comunicazione di massa. Ecco, quando io salgo sull'autobus e dico: ma allora com'è, c'è oggi lo sciopero, eh? Ah, non lo so, la televisione non l'ha detto. Cioè, il verbo. Allora, ci sono delle fonti che sono autorevoli e sono elemento fondamentale della verità. Di questo si occupa Giordano Bruno. per quel... ai suoi tempi si occupò di questo argomento, di come le ombre, quindi ciò che impedisce la percezione del cammino che il soggetto deve fare, il lungo cammino che deve fare per arrivare alla verità, stia addirittura nelle idee. Ecco, io qui vi lancio questa un pochino questa provocazione. Ci sono delle vostre idee che sono come un pochino delle trappole per la verità? Punto interrogativo. Cioè, ognuno di noi ha delle formazioni che vengono spesso dall'educazione, che vengono dalla scuola, oppure che vengono dalle opzioni. Per cui... dal carattere di cui abbiamo parlato l'altra volta, che vengono, esatto, tabù della società, esatto, condizioni, ed è così complesso. E vedete, questo testo di Giordano Bruno, che è sconosciuto praticamente, e noi l'abbiamo letto appunto come sempre con la Bruna, facevamo così, scendevano i libri dalla libreria, li portavamo da lei, leggevamo e poi dicevamo sì, questo si cita, no? Ed è molto interessante questa idea che noi, che l'ombra, quindi ciò che impedisce di distinguere tra il percorso che il soggetto deve fare in una dimensione di libertà, può essere addirittura nelle nostre idee, che adesso noi usiamo il termine pregiudizio. Infatti, ma uno non è mai solo, è lui e gli altri, purtroppo a volte. Sì. Che si potesse confrontarsi solo con se stesso, esatto, sarebbe molto più facile. No, dico io, non so se dico una cosa giusta o una sciocchezza. No. Sì, come sì. Criterio, prima lei parlava di idee, l'affidabilità, per esempio. Sì. Tempi di Bruno. Ma adesso l'affidabilità su che cosa si affida? Certo, non è media. Non voglio, appunto, certo, i criteri di affidabilità, diciamo, struccia, che sono un pochino scivolosi. Pressoché nulla. È vero, cioè, ecco, quello l'ho pensato subito. Quello che dice il Papa può essere di riferimento, però è comunque condizionato a un modo di vedere. Ci fanno deviare dove vogliono. Per cui noi non dobbiamo mai dimenticare questo, il mito della caverna. Cioè l'uscita è un'uscita che è possibile in una condizione collettiva di libertà. Quindi se non c'è la possibilità... Anche da noi stessi, perché e sì, a volte ce la raccontiamo... Come abbiamo detto, anche da noi stessi. Appunto. Nel testo di Giordano Bruno, De Umbris Idearum, c'è scritto, e questo l'interessante di questo testo, che la... distinzione tra mondo sensibile e mondo intelligibile può essere confuso proprio a causa delle nostre idee. E sì, su questo io credo che ci ritroviamo, perché vengono magari dall'educazione, vengono... Siamo un po' nemici della nostra libertà vera, in un modo o nell'altro. Infatti ci vuole uno che, non dimentichiamo che per Platone non siamo noi a diventare liberi, non siamo noi a liberarci. Questo è uno degli elementi fondamentali del mito della caverna, perché noi siamo sempre convinti, va bene, questa cosa non mi piace, io non la farò, punto, e basta, no? Invece, proprio per Platone, questa, la dimensione della libertà, è una dimensione a un soggetto uno, a un soggetto non definito, non determinato, a un certo punto uno libera gli schiavi. Però l'insegnamento, per esempio, la funzione del maestro con la maiuscola, sì, quello è un gran liberatore. Nel mio caso, io ho avuto un liberatore. enorme, che faccio di me una persona diversa. Scusate, state sovrapponendo, non si comprende. Alzate la voce anche voi, che se poi vi viene la tosse c'è Emilia che ha le caramelle. Va bene, allora, andando avanti, siamo sempre nel 1500, il poeta londinese, che la Bruni ed io amiamo molto, John Donne, scrive una proprio lezione sull'ombra. E allora, questa è in realtà una lezione sulla filosofia dell'amore. Cioè, John Donne dice che si può capire la relazione ombre e luce soltanto se si entra a conoscere che cosa sia l'amore. Perché solo l'amore rivela chiaramente il momento in cui c'è la luce o ci sono le ombre. E lui dice esattamente, l'abbiamo riportata: è breve il giorno d'amore se l'amore si corrompe. Amore o cresce, o è piena e ferma luce. Il primo attimo d'ombra è la sua notte. Io ho letto morte, che non è vero, ma c'è scritto notte. È la sua notte. Ecco, allora, se pensiamo, ognuno di noi ha avuto un'esperienza amorosa che in qualche modo si è incrinata, si è messa in dubbio e magari poi è finita. Ecco. E secondo John Donne è lì che l'amore rivela più di ogni altra situazione il momento in cui l'ombra toglie proprio la luce, toglie la luce. Ecco, tutti i consulenti matrimoniali per le separazioni legali sanno bene a chi si devono rivolgere. Bene. Non so, di queste cose non so. Non so molto. Adesso andiamo nel 1635 a Calderon della Barca. Penso che l'avrete sentito nominare, perché i suoi le sue affermazioni fanno parte della nostra cultura. La vita degli uomini è il sogno di un'ombra, o l'ombra di un sogno, il sogno di Dio. Ecco, 3-4 giorni fa, sentendo Vito Mancuso, ho ritrovato un momento di questa affermazione, cioè, in un certo senso, nella nostra interiorità, noi possiamo, se costruiamo, come dice Vito Mancuso, il nostro tempio interiore, noi possiamo trovare questa profondità del sogno, che è il sogno di Dio. Allora, voi capite che dire ai credenti che Dio è un sogno? No. Ma come? Dio ha parlato, si è rivelato, no? E poi, giustamente, io, nipotino tredicenne, dice: ma questi che sapevano scrivere, benissimo, Socrate e Gesù, ma perché non hanno scritto? Invece di parlare e rivelare e affidare agli altri, no? Visto che lo sapevano fare, perché non hanno scritto? Allora, Calderon della Barca addirittura dice che Dio appartiene al nostro sogno. Noi abbiamo trovato che questa è un'affermazione molto forte, per cui l'ombra di Dio è nei nostri sogni, cioè che anche Dio possa essere Lui stesso l'ombra che in qualche modo si insedia nella nostra vita e ci spinge, no? E ci spinge a fare quello che altri filosofi, qui poi noi abbiamo scelto di saltarli, altri filosofi come Kierkegaard, no? Il salto nella fede, cioè senza questa spinta, no? Della trovare, sognare Dio. Senza questa spinta non si arriva a quello che Kierkegaard ha definito il salto nella fede, che quindi non è un passaggio né mentale e neanche semplice, perché parla Kierkegaard proprio di un vero e proprio salto. Noi abbiamo sempre messo un pezzettino, una frase all'inizio di questi capitoli, e quello sulla bellezza, avevamo scritto: la bellezza è l'amore di Dio nel mondo. Questo ci era piaciuto in una maniera particolare, mister. Sì. Adesso, sempre andando avanti, ci avviciniamo, c'è il testo nel 1879 di Nietzsche. Ed è il testo, secondo noi, più interessante sulla coppia luce-ombre. E Nietzsche ha 34 anni, quindi nel mezzo del cammino di nostra vita, ha lasciato l'università, da tempo è apolide, e nonostante le emicranie che annunciano già il suo male, soggiorna in totale solitudine nella parte alta dell'Engadina, che noi possiamo anche conoscere. E lì in 3 mesi scrive su temi più svariati e complessi, e li scrive in forma di dialogo: il viandante e la sua ombra. Ecco, Bruna, leggi tu questo? No, io ci vedo no, poco. No, no, allora vado avanti io. Allora, noi abbiamo riportato qui questo pezzo, sì, molto questo carino. Pezzo, sì. L'ombra. Quindi concepisce un dialogo tra l'ombra e il viandante. Il viandante è lui, perché appunto è apolide, non è più, non ha più la sua, no, il luogo dove lui si riconosce, no? L'ombra: poiché per tanto tempo non ti ho sentito parlare, vorrei dartene un'occasione. Il viandante: per Dio e per tutte le cose a cui non credo, la mia ombra parla, la sento, ma non ci credo. L'ombra: accettiamolo e non ci pensiamo più, in un'ora sarà tutto passato. Il viandante: solo ora mi accorgo di quanto io sia scortese verso di te, mia amata ombra. Io amo l'ombra come amo la luce, perché ci sia bellezza. E la Bruna prima vi ha riferito la nostra frase sulla bellezza: perché ci sia bellezza sul volto, chiarezza nel discorso, bontà e saldezza nel carattere, l'ombra è tanto necessaria quanto la luce. Esse non sono avversarie. Si tengono, al contrario, amorevolmente per mano, e se la luce sparisce, l'ombra la guizza dietro. L'ombra dice: e io odio la stessa cosa che odi tu, la notte. Io amo gli uomini perché essi sono seguaci della luce. Ecco, allora, in questo dialogo di Nietzsche tra il viandante e la sua ombra c'è il concetto fondamentale della relazione tra l'ombra e la luce. Bisogna amare la luce per amare l'ombra. Allora, arriviamo adesso nel Novecento, state tranquilli che ci stiamo arrivando. Nel Novecento, dopo la caduta dell'impero asburgico, Ugo von Hofmannsthal scrive il libretto per l'opera di Richard Strauss, La donna senza ombra. Quindi finora abbiamo sempre sentito parlare di uomini, no? e invece lui scrive per la prima volta, parla della donna senza ombra. E allora, in questo fantasmagorico racconto, l'ombra rappresenta la fecondità umana che deve essere sempre cercata. E quindi la donna si muove, quindi se pensiamo al mito della caverna, si muove, il suo obiettivo è generare. Generare. In questo libretto, che non ebbe poi nessunissima fortuna perché fu nell'esecuzione all'opera di Vienna, andò malissimo, quindi, però per noi è interessante perché per la prima volta si vede come il cammino tra l'uomo e la donna sia diverso, ed lo troviamo in questa opera, in questa sua opera. Allora, la diversità, quello che noi chiamiamo con termini attuali le differenze, mi pare che proprio stasera a questa stessa ora c'era una cosa sulla differenza di genere. Allora, sulle differenze, ecco, c'è una differenza anche nel concepire l'ombra. Ecco, secondo Richard Strauss, è la capacità o l'incapacità di generare diventa l'ombra per la donna. Insomma, sì, comunque, contento lui. Adesso arriviamo al punto, al nostro preferito, che per la Bruna non è per niente. No, assolutamente. Questa fiaba di Andersen la trovo orrenda. Allora, dice quel che pensa. E allora la Bruna, quando ha un'idea, non c'è niente da fare, la porta avanti. Per cui lei non ha portato qui le fiabe di Andersen che avrebbe dovuto portare lei, quindi ha incominciato col primo boicottaggio. Come così? E lei non la ama, mentre ecco, questa fiaba viene considerata un pochino il manifesto della relazione tra luce e ombre. Allora, stamattina noi due, che io ho definito con un termine che usa mio nipote, che mio nipote dice: nonna, cosa hai fatto stamattina? Dico: ho preparato le cose per oggi pomeriggio. Ah, tu sei la solita sgobbona. Mi ha detto. Allora ho detto: no, ma ho un'amica anche sgobbona, che è lei, la quale ha fatto per voi, se volete, questi commenti sulla fiaba di Andersen. Allora, la vorresti almeno brevemente raccontare? No! Assolutamente no. Ecco, allora... A me proprio non piace questa fiaba. È una fiaba confusionaria fra il filosofo, la donna, la principessa, l'ombra, il diavolo a quattro. No. Ne ha scritte di bellissime, anzi, questa no. Ecco. Allora, se noi pensiamo che Andersen, che è... per tutti noi, no? È l'autore delle fiabe sulle quali noi siamo cresciuti. Cioè, senza di lui, no? Allora, quella dell'ombra però io non la conosco. Grazie. Vero? Grazie. Vede? Vede che... è una fiaba gotica, dice giustamente la Franca. Molto gotica. Di Franca, la vuoi raccontare tu? Tutti odiano questa fiaba. Ma no, c'è una storia. Mi piacerebbe sapere. Allora, sì, sarò breve visto che poi ve l'andate a cercare. Protagonista è il filosofo venuto dal nord. che viaggia per i paesi caldi, quindi ecco, in un altro, accompagnato sempre dalla sua ombra. Un giorno essa come scompare, scompare l'ombra, ed egli la sostituisce. Dopo parecchio tempo la sua ombra ricompare, ha preso carne e ossa e narra come questo sia accaduto. Questo è il passaggio che a me piace molto. Allora, lei sa che chi abitava nella casa di fronte? Dice l'ombra. Dice l'ombra, la cosa più bella che esista, la poesia. Rimasi lì 3 settimane. Imparai a conoscere la mia intima essenza, la mia natura, la parentela che mi legava alla poesia. Quando stavo con lei non ci pensavo, ma lei lo sa bene, ogni volta che il sole sorgeva o tramontava, io diventavo stranamente grande e al chiaro di luna mi si poteva vedere più distintamente di lei. Ma io allora non comprendevo affatto la mia natura, tutto mi apparve chiaramente nell'anticamera e io fui uomo. In seguito a questa rivelazione, i due viaggiano insieme e giungono in un luogo di cura, nel quale incontrano una principessa e decidono di andare nel suo regno. Attenti adesso, A questo punto l'ombra avanza l'arrischiata proposta. Egli sposerà la principessa, ma nessuno dovrà conoscere la verità, che lui è un'ombra, no? Del suo aver preso corpo. E tutti dunque sapranno che da sempre lui è il filosofo, l'ombra, che ha assunto carne e ossa. Il filosofo non accetta assolutamente di mentire. E allora l'ombra avverte la principessa. Mi è capitata la cosa più spaventosa che possa accadere. La mia ombra è impazzita. Crede di essere un uomo e che io, figurati, io sia la sua ombra. Povera ombra, sospirò la principessa, sarà certo molto infelice. Credo che sia una buona azione toglierle quel po' di vita che le è rimasta. A pensarci bene, sarà necessario liberarci di lei senza tanto chiasso. I due si sposarono, 3 grandi feste e clamore, quindi la principessa è l'ombra. È l'ombra. Il filosofo non sentì nulla di tutto questo perché l'avevano ucciso. Questa è una favola per bambini. In realtà sì. Dei geni, che voglio dire. Come si fa? Mi cavo tanto di capelli da allora. Io trovo che questa fiaba di Andersen è una cosa incredibile, no? È ben particolare Andersen. E comunque, poiché per questa, scusate, sono pieno di stagno, quelli, i vestiti dell'imperatore, ma questa ma è veramente... Infatti, come sapete, noi siamo cresciuti tutti con le fiabe di Andersen, questa non la conosceva nessuno. Ma vorrei vedere, vorrei calarmi in un bambino dell'epoca, cosa ne cavava un bambino dell'epoca, senza aver, era mia sua amica filosofo un bambino dell'epoca, i bambini sono bambini. Che domande può farsi? La meraviglia c'è anche nei bambini, d'accordo? C'è il desiderio. Sì, quello finché vuole, però, ma insomma, qui ci vuole un pensiero io complesso. Io l'ho detto, a me non piace, già, punto e basta. Non so se un bambino è in grado. Siamo nel 19 qua, e qua mi viene spontaneo un pezzettino molto bello, che anche è dentro della Dry Grush dopo, del Brecht naturalmente, degli Einems in di Duncan. Und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkel sieht man nicht. Naturalmente gli uni sono nell'ombra, gli altri nella luce, si vedono solo coloro che sono nella luce, coloro che stanno nell'ombra non si vedono. Ecco. E me la trovo veramente molto interessante, molto bella. Molto bella. E poi, siccome noi stiamo facendo un lavoro, noi in questo caso siamo noi tre, in fila uno, due, tre, una volta al mese, come fate voi, noi siamo in contatto con un book club di Milano. Come no? Non ti piace il contatto? Sì, sì. Attraverso la computer, veramente, è un contatto ombroso. Ombroso. Permittente, più che altro, delle volte. Ombroso. E stavo leggendo adesso un libro bellissimo, che è Un viaggio... Un viaggio con Erodoto. Che è un libro di Cappucinski, bellissimo. E a un certo punto lui dice: mi appoggiai al tronco e mi lasciai scivolare nell'ombra. In momenti come quello, l'ombra è qualcosa di solido. Il corpo la accoglie con la stessa abilità con cui le labbra riarse accolgono un sorso d'acqua. Che sollievo! Placa la sete. Ecco, questo ecco, è l'ombra che in questo caso placa la sete. E questo mi piace molto perché ritorna anche a quello che tu dicevi dell'ombra di Idearum, è proprio l'ombra che placa la sete, cioè che ci spinge verso il discorso del mercato. Per questo mi piaceva questo discorso. Ecco. Scusa, no. Ogni tanto interrompo così, che devo fare? Sono una rompi, perciò interrompo, no? Ecco. Vadi, dottore. Grazie dell'interruzione. Allora, adesso arriviamo nel pensiero contemporaneo, la coppia luce-ombre viene ridimensionata, quindi siamo più tranquilli. Ci piace riferire a tal proposito le considerazioni di Pieraldo Rovatti, Il declino della luce, scritto questa bella opera Rovatti. Una delle principali consapevolezze di cui oggi disponiamo in filosofia è che le cose non si possono più guardare direttamente in faccia, pena il travisamento del pensiero. E che se vogliamo inseguire qualcosa come una verità, dobbiamo andarla a cercare non in piena luce, ma piuttosto nella zona in cui giocano luce ed ombra. Ecco, questa affermazione di Rovatti io la trovo straordinaria, sono amica di Rovatti. Può essere buio? Eh? La luce può essere buio altro che ombra. Sì, sì, esatto. Allora, alla fine finisco sempre col mio filosofo preferito, che è Martin Heidegger. E lui ha scritto, ha parlato della Lichtung, cioè della radura. Quindi, ecco, ci sono dei termini della filosofia che facciamo fatica a tradurre in italiano, infatti tutti quelli che amiamo la filosofia abbiamo fatto l'attraversamento nel Deutsch. Ecco, quindi adoperiamo la Lichtung heideggeriana e vale la pena di dirla così, cioè di... E la radura, cioè noi quindi non ci muoviamo, né siamo al buio come nella caverna, né ci muoviamo nella luce, ma ci muoviamo in una situazione in cui luce e ombre sono intrecciate. Ecco, questo concetto di Heidegger io lo trovo molto interessante, perché questo comporta anche uno degli elementi fondamentali che noi abbiamo affrontato in un altro punto, l'andare e il tornare. Quindi, cioè, quando tu hai un cammino in cui sai esattamente, no, muoverti, vai dritto e vai avanti, è un percorso e vai avanti. Nel momento in cui invece sei nella Lichtung, nella radura, un po' vai e un po' torni, soprattutto ti fermi. E soprattutto noi abbiamo prediletto questa cosa della restarsi. Che direzione muoversi poi, no? Cos'è una radura, scusi? Questa, la radura è in quel pezzo di bosco che è fra il bosco e il non bosco. Io lo faccio in un mio romanzo. Ho detto che in fondo il percorso della vita è un po' come in un bosco, invecchi, cioè entri, è pieno di alberi bellissimi, vai avanti un po' meno, fino a che arrivi a una radura e sono le persone che hai amato, gli amici che non ci sono più. Certo. Per me il percorso della vita è proprio arrivare a una radura. Ho usato quel termine. Per Heidegger è proprio la metafora dell'esistenza. Per me sì, io l'ho messa così in quel romanzo, perché la sento così. Sì. Tutto, era tutto così affollato, così, così verde, no? Poi pian pianino arrivi e non c'è più nulla. Anche perché chi è che va? Che, certo, perché non quindi c'è chi va la differenza tra l'andare e non è che va senza se oggi vagabondiamo perché non sappiamo dove stiamo andando, per fortuna che non lo sappiamo, cioè ci spareremo subito. Voglio dire, no? Allora il vagabondo io non ho una visione così positiva del nostro momento. No, appunto, è per quello che vagabondiamo, non andiamo, perché non sappiamo dove stiamo andando. Siamo attenti dove mettiamo i piedi, soprattutto. Ecco. Esatto. Va bene. Abbiamo finito ancora con due autori. Siamo arrivati a... No, mi lascia il nome, è filosofo. E siamo arrivati ai filosofi contemporanei, Derrida, Levinas, Hans Jonas, e si sono confrontati con la relazione del tutto nuova tra il soggetto, il conoscere e la luce, capace di indicare la direzione di senso che è questo, appunto, io l'ho tradotto la Lichtung, l'intravedere. Quindi noi non possiamo più vedere, ma intravedere. Ecco, e questo dell'intravedere permette anche di una, come diceva Bruna prima, di fermarsi e riconoscere l'altro come altro. C'è per la cui... riflessione nell'intravedere, perché non vedi certo, tutto. La riflessione. E allora come tu la rifletti, ti fermi un attimo e rifletti. Sì, è importante quel momento. Certo, certo. Sì. Ah, ah. Sapete che mi fate pensare un sacco di cose, ve lo posso? Beh, insomma, ci hanno chiamato apposta. Bello. E poi? Io sono spontanea. È un successo. Avete capito molto. Mi piace pensare. Ecco, siamo arrivati alla fine. Maria Zambrano. Così finalmente c'è una filosofa, e fa tesoro del nuovo contesto nella sua opera L'uomo e il divino. Raccomanda di non trascurare il grande tema filosofico e diventare custodi del mistero dell'esistenza di Dio, non pretendere di svelarlo, riconoscendo che siamo noi le creature a essere la sua ombra. Questo concetto di Maria Zambrano è interessantissimo. Siamo noi l'ombra di Dio. In un suo altro testo, Chiari del Bosco, descrive con pochi tratti lo straordinario percorso che dalla profondità porta alla luce. In alto, nella luce, il cuore si abbandona, si concede, si raccoglie, si addormenta alla fine senza più pena. Nella luce che accoglie, dove non si patisce violenza alcuna, perché lì a quella luce si è giunti senza forzare alcuna porta e persino senza aprirla, senza aver attraversato soglie di luce e ombra, senza sforzo e senza protezione. La fede piena. Abbandono proprio totale perché non puoi fare niente. Bellissimo, sì, meraviglioso se accade. Questo concetto della Zambrano, che poi è anche il concetto della Arendt, del non avere l'idea che ci possano essere ringhiere. Le ringhiere, no? E questa possibilità dell'abbandonarsi è... Questo abbandonarsi diventa la, il concetto fondamentale per cui noi siamo l'ombra per Dio. Pensi tutta la riflessione mentale fatta su Dio, che a un certo punto si annulla nel momento in cui cedi e non c'è più questo pensare che ti tormenta, certo. Perché la fede arriva alla fede, non è così semplice quando la testa funziona, invece questo abbandono è bellissimo. Allora, Bruna, vuoi leggere? No. Poi che legga quel piccola poesiola. Sì, io voglio che legga le sue poesie. Ogni tanto scrivo anche follie alla ricerca. E io le pubblico. Cammineremo, tu dovrai pubblicare la poesia. Cammineremo dove non ci sono strade tracciate. E viene fuori di prima. E i nostri passi conosceranno la terra. Guarderemo un orizzonte al quale avremo strappato il sole. Ci ghideremo in uno a uno verso lo specchio cieco. La nostra ombra si stancherà di noi, incontreremo l'immagine che ci appartiene, l'immagine dell'altro. Scusate, però c'era... Io non ho capito. È talmente breve, sarebbe gentile se la ripetessi. Sì, sono qua. Guarda, facciamo leggere a lei. Sì, adesso la leggo. Sì. Facciamo silenzio. Posso? Sì? Perdo. Sì, c'è la ricerca. Cammineremo dove non ci sono strade tracciate e i nostri passi conosceranno la terra. Guarderemo un orizzonte al quale avranno strappato il sole. Ci chineremo a uno verso lo specchio cieco. La nostra ombra si stancherà di noi. Incontreremo l'immagine che ci appartiene. L'immagine dell'altro. Grazie a tutti, prego. Qui adesso c'è una mostra sull'antico Egitto. Una volta avevo detto che l'ombra e il nome erano parti costitutive proprio della persona. Mi aveva colpito molto questo, perché il nome può essere, ma che l'ombra fosse parte costitutiva della persona, imprescindibile, mi ha colpito, l'ho letto al Castello del Buon Consiglio, e dico, ma guarda quante cose non pensate, mamma mia. Io non ho mai vista la mia ombra, non ho mai Ecco, lei ha dato addirittura il nome lì. In questo senso l'ombra assume anche una valenza positiva, mi pare di aver capito quando molto spesso la si associa a degli elementi anche costitutivi di sé piuttosto negativi, cioè quasi da disconoscere, da allontanare, no? Nel linguaggio comune le proprie ombre sono quei lati della personalità. Ma ci sono anche persone che ti fanno ombra. Sì. Sì, purtroppo, la fiaba di Andersen è questa. Quando lei ha parlato di suo marito, sa cosa ho pensato? All'ombra della sera. Grazie. Perché talmente me l'ha evocata quella scultura. Mi piace questo. Sì, moltissimo. E questo mi ha fatto venire. Grazie. È un bel pensiero per suo marito. Grazie. Prego. Ne sarà contento. Io. Visto che come ombra anche lui è sempre qua. Ma magari c'è anche il mio che non ci ho mai pensato, ma io non l'ho più. Chissà cosa si racconta. Ecco. Avete mai pensato a Peter Schlemming? Schlemming è la sua ombra. Cioè, la letteratura tedesca, la letteratura gotica è piena. Alzate la voce, se no non si sente franca. Sì. È tutta un'ombra, capito? C'è l'omino bobo, c'è quello che perde l'ombra. Non è il mio campo. È per quello che Andersen ha fatto questa cosa sull'ombra. Ma Peter Schlemming. Sì, certo, ha ragione Ada, certo. E poi c'è tutta la filosofia che si innesta sul doppelganger, no? Sì, appunto il doppio, come dicevo io. Ecco, sì. ritrovi l'altro, o ti immedesimi nell'altro. Ci sono anche degli scrittori contemporanei che si sono occupati a proposito del vagabondare, che dicono che le nuove generazioni sono talmente senza prospettive che vagabondano, che non viaggiano, che non vanno, perché non hanno una direzione. E molte sono così, molti, dicono scrittori, sono talmente, come dire, poco sicuri di dove andare, di che cosa fare, che cercano di hanno un vuoto e cercano di colmare questo vuoto immedesimandosi in un altro. E quindi ecco dove viene fuori la cosa del doppio. Nobel forse è un tema di Nobel, esatto, perché lo sto leggendo, se ne so, perché mi risulta un po' ostico quell'autore lì. C'è questa, un Nobel. È il tema del doppio anche quello, c'è il Nobel adesso. Certo, che è di molta attualità oggi, in cui l'ombra non assume un significato positivo come nella Zambrano. Smarrimento. E poi nella filosofia orientale invece si può anche dire, secondo me, che il tema della luce e dell'ombra viene rappresentato da questo meraviglioso simbolo, il Tao, che parla da sé e rappresenta quanto di uno ci sia nell'altro e viceversa. Tutte e due, chiaramente. Certo. Uno compensa l'altro. Certo. Allora. Michele, prego. Ma intanto grazie perché mi avete portato un po' fuori dalla caverna stasera. Mi avete spintonato. Devo dirvi che, sentendovi, ho fatto una considerazione. Sono vissuto con l'idea, con una duplice idea di ombra. La mia formazione iniziale era quello di tecnico, quindi riprendendoci da Galileo, tutto ciò che è riproducibile, quindi la tecnica non dà spazio tanto al sogno, al pensiero sì, no? Poi lo proviamo, vediamo se è vero, se no lo si abbandona subito, ma non te lo porti dietro, non ti segue se non ti dà la dimostrazione concreta. E allora mi viene in mente una pubblicità che vedevo da ragazzo che mi è rimasta impressa, non tanto per il prodotto che non ricordo, ma c'era un tale che si chiamava Ulisse che ce l'aveva con la sua ombra e con la gomma la cancellava. Ed era questa la mia idea del tecnico, che l'ombra se la cancellasse perché gli dava fastidio, perché gli era un impedimento alle certezze. Venendo avanti, poi ho fatto sociologia, la filosofia l'ho studiata in maniera finalizzata, quindi il diritto è questo e quello, ma non in termini di teoria filosofica. Qualcuno, ad esempio Platone per la Repubblica, eccetera, ma anche altri autori, Thomas More, oppure Tommaso Campanella e altri, ma tutte quante, se vogliamo, Giordano Bruno, ma tutte orientate in una certa maniera. Un giorno ho sentito da una vecchia zia di mia moglie una storia messa in termini religiosi. Io me la sono portata dentro, mi era piaciuta moltissimo, ma mi piaceva immaginarla come se, dunque, il personaggio camminava sulla spiaggia e vedeva, oltre alle sue due impronte, altre due impronte. Erano quest'altra dimensione, che non voglio chiamare ombra. Questa vecchia zia, centenaria, diceva che era Gesù che gli camminava a fianco. E lui era sereno, dialogava con questa altra dimensione, eccetera, alla cui valenza ho dato anche un significato. Cioè, è quel luogo protetto dove noi mettiamo quello che avremmo voluto essere, con i valori, eccetera, quello dico, quell'altra dimensione, no? Il nostro ideale di come avremmo potuto essere e non siamo stati, le occasioni non colte e via dicendo. e la teniamo custodita, nascosta, inaccessibile ad altri. Però ogni tanto andiamo a frugare, andiamo a vedere che cosa c'è, che cosa ce ne viene ancora. Ebbene, allora questa figura cammina sulla spiaggia e conta quattro impronte. C'è l'altra dimensione che gli sta camminando a fianco. Dialogano. Un giorno di grande amarezza, tristezza, eccetera, lui cammina sulla spiaggia e si lamenta perché vede solo due impronte, non ne vede più quattro. E dice, ma come? Proprio adesso, che è il momento più brutto per me, mi sento abbandonato solo, non ci sei? E allora sente la voce che dice, no, quelle impronte sono le mie, ti sto portando in braccio. Che bella storia. Che bella. Che bella cosa. Bella. Bellissima. Era una molto donna bella. Del secolo scorso, ma dell'Ottocento, forse del Novecento. Molto bella. Bellissima. Grazie. Bello, grazie. Bellissima. Molto bella, bella, bella. Bene, allora se nessun altro vuole fare una domanda o aggiungere una propria considerazione personale, io vi ringrazio. Sì. Grazie a voi. Vi saluto e chi ha alla prossima volta. Tornare la prossima volta, il 13 dicembre. Vi aspettiamo. Che deve essere stato bellissimo. Molte grazie. Grazie, grazie. Se qualcuno vuole il libro, c'è Emilia lì che ci aiuta. Dai, sono contenta.